in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, buona domenica elettorale. Possiamo dire pochissime cose su questi ballottaggi che ci sono oggi, però ovviamente sono su tutti i giornali, ci sono tantissimi commenti. Cominciamo dal Sole 24 Ore, come sempre, che apre però sulla Brexit, la famosa possibile exit della Great Britain dal Regno Unito. Si decide tutto il 23 di giugno con questo referendum in cui i cittadini britannici ci saranno chiamati a dire se vogliono remain, restare nell'Unione Europea, oppure leave, andarsene. E quindi il titolo scelto dal Sole 24 Ore si riferisce alla dichiarazione di ieri del nostro ministro dell'economia Piercarlo Padoan: da Brexit per l'Italia non ci sono rischi specifici. Poi alle pagine, tra l'altro molti altri approfondimenti li trovate sul Sole 24 Ore di domani, ma su oggi sul Sole 24 Ore, già a alle pagine 2 e 3 ci sono tutte le possibili conseguenze, appunto, di questa i vari aspetti soprattutto finanziari ed economici, oltre che poi ci sono quelli politici e anche culturali, di questa possibile uscita del Regno Unito, che è uno dei membri fondatori dell'Unione Europea, appunto dall'Unione Europea. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche due ricordi di Vittorio Merloni, l'imprenditore marchigiano che è scomparso ieri, era del 1933, nel suo pezzo Luigi Abete, che poi trovate a pagina 21, lo definisce il pioniere della Confindustria moderna. E poi c'è un altro pezzo di Romano Prodi, L'ottimismo contagioso dell'innovatore. Vi segnalo anche la consueta lettera al risparmiatore che ogni domenica Vittorio Carlini scrive sul Sole 24 Ore, si chiama così ma in realtà è una pagina di approfondimento su un singolo titolo quotato. Questa settimana è una società di infrastrutture per le telecomunicazioni che si chiama Retelit, e Vittorio Carlini ci spiega poi a pagina 16, analizzando il bilancio, appunto, qual è la situazione e quali sono i vantaggi o gli svantaggi per gli investitori che o abbiano in portafoglio o decidano di mettere nel loro portafoglio le azioni di questa azienda. E poi un intervento dell'arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte, che trovate poi a pagina 8, richiamato in prima pagina, si intitola La Chiesa rivaluti il ruolo della donna, e lo spunto è quello della ininterrotta sequenza di femminicidi. La parola non piace a molti, non piace particolarmente neanche a me, però almeno sappiamo che cosa intendiamo, cioè donne uccise dai mariti, dai compagni, dagli ex compagni che non accettano di essere abbandonati o di essere lasciati, perché insomma lasciarsi non necessariamente abbandonati. Il Corriere della Sera titola su un'intervista che è esclusiva del Corriere della Sera, fatta dal giornalista inglese Alan Friedman a Donald Trump. Pronto, il titolo scelto è Pronto a invitare Putin alla Casa Bianca. L'intervista la trovate poi alle pagine 10 e 11. La fotonotizia, come anche per molti altri giornali, è dedicata all'inaugurazione che c'è stata ieri sul lago d'Iseo all'opera dell'artista di origine bulgara ma naturalizzato francese, e Cristo, e quindi molti lo chiamano Cristo. L'inviato del Corriere della Sera Pierluigi Panza racconta questa magia in una giornata che è stata per quasi tutto il tempo di sole, le code, i selfie, la magia camminando sull'acqua. E come forse sapete, appunto, questa passerella di questo arancione già usato in passato da questo artista e dalla moglie, che adesso è scomparsa ma per molti anni hanno lavorato insieme, una passerella lunga 3 chilometri sul lago d'Iseo, che appunto dà la sensazione di camminare sull'acqua. E il commento è affidato a Andrea Vitali, che sul lago vive e che tra l'altro anche gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, e che appunto aggiunge la sua suggestione letteraria a questa camminata sull'acqua. La Repubblica titola proprio sulle elezioni: sindaci al voto tra i veleni. Non dico altro perché siamo stati tutti bombardati nei giorni scorsi, nella settimana scorsa, anzi direi nelle ultime due settimane, quelle trascorse dopo il primo turno, da questi duelli, appunto, perché oggi ci sono i ballottaggi. sono in più di 100 comuni e si dice che già insomma, le urne chiuderanno alle 23, lo spoglio sarà più veloce, i risultati saranno più veloci dell'ultima volta, perché appunto bisogna soltanto conteggiare questo tipo di voto, cioè o per uno o per l'altro candidato, mentre nel primo turno bisognava anche conteggiare tutti i voti dei vari consiglieri comunali. Anche in questo caso la foto, un po' diversa ma sempre molto suggestiva, è della passerella sul lago di Iseo. Il Corriere parla di 40.000 persone, La Repubblica di 50.000 persone per il primo giorno. Il Messaggero ha una fotonotizia ancora diversa, perché come avrete sentito sicuramente nei vari notiziari, a Bruxelles ieri sono state arrestate 12 persone in un blitz antiterrorismo. L'ipotesi è che stessero preparando un attacco alle persone che in piazza a Bruxelles, in varie piazze, in particolare appunto a Bruxelles, guardano le partite degli europei sui maxi schermi. In questo caso l'attacco avrebbe dovuto avvenire durante la partita Belgio-Irlanda. Anche in questo caso il titolo principale però è sulle elezioni di oggi, anche perché Roma è tra i comuni più importanti in cui si vota, quindi sfida sui sindaci il caso Roma. Stessa fotonotizia, anche se anche qui diversa, ognuno ha preso, insomma c'erano naturalmente ieri disponibili nelle agenzie fotografiche centinaia di foto di questa passerella opera d'arte. E la stampa ha una foto ancora diversa dove si vede più in evidenza proprio la passerella con questo suo colore arancione, e il titolo: Il miracolo di Cristo sul lago di Iseo. Vi segnalo il titolo, diciamo, vero e proprio della stampa, che è in realtà un articolo di Domenico Quirico, che ricorderete è l'inviato speciale della stampa, che è stato rapito nel 2013 per 5 mesi in Siria, e sarebbero i suoi rapitori sarebbero morti, uccisi proprio in Siria, e Quirico ripercorre quella vicenda della sua vita, ma poi naturalmente è anche un modo per riaccendere i riflettori sulla guerra civile che c'è in Siria, e su cui si esprime anche il direttore della stampa Maurizio Molinari, a sua volta per tanti anni inviato. Sirte, la battaglia nel grande gioco del Mediterraneo. Libero ha un titolo ancora diverso su una vicenda di cui sicuramente forse sui giornali si parla troppo poco, che è quella di questi terribili roghi dolosi, quasi tutti, forse a voler esagerare l'1% non è doloso. Si tratta di 5.000 roghi che stanno devastando la Sicilia, o meglio roghi che hanno devastato 5.000 ettari di macchia mediterranea in Sicilia. Il titolo di Libero: bruciano la Sicilia e vogliono soldi. Dopo gli incendi, in gran parte dolosi, che hanno rovinato l'isola, è già partita la richiesta dello stato di calamità. Prima di sprecare altro denaro pubblico, però, sarebbe meglio lasciare a casa i 23.000 forestali e gli inutili politici. Negli anni scorsi si è parlato spesso di questo plotone di forestali che c'è in Sicilia, e che poi, come tra l'altro ha detto ieri anche il governatore della Sicilia Crocetta, è inverosimile che non con una schieramento così imponente appunto di forestali non si riescano a prevenire gli incendi dolosi. Però intanto era diciamo anche un atto dovuto da parte del governatore chiedere lo stato di emergenza. Il Giornale titola sulle elezioni: un voto per cambiare, le urne fanno tremare Renzi. Ma dalla prima pagina vi segnalo anche un articolo di Stenio Solinas, che sulla Nazionale di Calcio, ieri con le ultime partite della prima fase, siamo riusciti a qualificarci primi nel girone, che adesso appunto arriviamo agli ottavi come prima squadra. Allora Stenio Solinas: orgogliosi e azzurri, la lezione di Conte agli italiani riluttanti. Beh, sicuramente ci saranno anche degli italiani riluttanti che non seguono la Nazionale o non hanno questo entusiasmo più o meno obbligato per le prime due vittorie della nostra nazionale. Però appunto su questo commenta Stenio Solinas. L'Avvenire sceglie di titolare sul blitz di ieri delle forze di polizia del Belgio: fermarli si può, sventato l'attacco ai tifosi belgi, presi 3 jihadisti. E poi però la fotonotizia è dedicata, è una foto di migranti, perché domani è la giornata mondiale dei rifugiati, e quindi l'Avvenire torna naturalmente sulla questione. Vedremo anche dopo all'interno con alcuni dati aggiornati su questa su queste ondate migratorie di cui tanto, tanto abbiamo parlato e tanto dobbiamo parlare. L'Unità naturalmente titola sulle elezioni di oggi, all'ultimo voto, con un collage dei candidati sindaci del PD, dei principali candidati sindaci del PD. Il manifesto sala d'attesa, ed è la foto scattata a Palazzo Chigi, dove secondo il manifesto c'è allarme rosso, sapete, l'avete sentito, non violiamo nessuna particolare, credo, norma, se diciamo che naturalmente molti dicono che il più in ansia per queste elezioni è Matteo Renzi, perché alcuni ballottaggi ne dica il Premier sembrano appunto un referendum su di lui, e per questo il manifesto titola a Palazzo Chigi allarme rosso. Il manifesto però è anche l'unico giornale che mette in prima pagina queste condanne incredibili che sono arrivate, purtroppo sono vere, le definisco incredibili, ma bisogna crederci, che sono arrivate dall'Egitto, oltre ai 40 anni al generale Al-Sisi, a Morsi, che è stato a capo dell'Egitto ed è stato deposto da un golpe nel 2013, è stata comminata la pena di morte a due reporter di Al Jazeera e di un'altra televisione questa è l'accusa, per aver passato delle informazioni. Il Fatto Quotidiano titola a sua volta sulle elezioni, con le accuse incrociate a Virginia Raggi e poi invece a un comandante della Guardia di Finanza molto controverso. Il titolo Città oggi si vota. Poi c'è anche in prima pagina, sempre per tenerci un po' lontani appunto dalle opinioni troppo forti o dalle previsioni su quello che succederà oggi al secondo turno, ai ballottaggi per i sindaci di oltre 120 città, richiamato in prima pagina, e poi trovate pagina 14 e 15 un approfondimento sempre sulla Brexit, quanto può costare l'addio di Londra all'Unione Europea. Ci fermiamo, un'ultimissima segnalazione prima del meteo, la Gazzetta dello Sport, mettiamola tutti, sotto questo titolo c'è una maglietta azzurra, quindi il consiglio appunto un po' come Stenio Solina sul giornale, tifiamo tutti per la nazionale. Ci lasciamo però un attimo per gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Abbiamo visto le prime pagine dei giornali, ora ci spostiamo all'interno e vi dicevo sul Sole 24 Ore a pagina 5, per chi volesse appunto un reality check su che cosa veramente vuol dire il rischio Brexit, trovate questo articolo, questa pagina con tutti i focus sulle principali asset class finanziarie, cosa potrebbe succedere appunto se la Gran Bretagna decidesse di uscire dall'Unione Europea. Brexit o Brexit, ecco cosa cambia per bond, azioni, valute e immobili. Sempre dalle pagine interne del Sole 24 Ore, la copertina di Impresa e Territori, cioè pagina 9, c'è una, secondo me, ottima notizia per chi ama o per chi deve o per chi vuole viaggiare in treno. Marco Morino ci racconta: la TAV Svizzera punta sull'Italia. C'è questo progetto per una nuova linea ad alta capacità per collegare il Gottardo alla Liguria. Si chiama LumiMed, prevede un bond dedicato e un piano di project financing, già disponibili grandi aziende come Nestlé, Merckx, Migros e Gavio. E poi vi segnalo invece a pagina 10, forse insomma qualcuno, soprattutto chi vive a Milano, l'ha visto, da ieri sono iniziate le sfilate dell'uomo di Milano, e capisco che possono sembrare una cosa un po' frivola, però come dico sempre, sono un po' di parte perché seguo questo settore da tanti anni, le sfilate sono solo la punta dell'iceberg di un sistema moda, tessile, abbigliamento che in Italia è tra le primissime voci del nostro, della nostra capacità manifatturiera, quindi, ed è una cosa unica che abbiamo in Italia, una filiera integra del tessile abbigliamento che abbiamo solo in Italia. A pagina 10 trovate la cronaca delle sfilate, che poi sono le collezioni della primavera estate del prossimo anno, quindi è proprio un'anticipazione, non è certo quello che poi si trova nei negozi. Ieri hanno sfilato Dolce Gabbana e Angelo Flaccavento ci racconta appunto il jazz di Dolce Gabbana, Versace scultorio e militare, e poi l'analisi di Paola Bottelli, perché soprattutto appunto le sfilate di Dolce Gabbana e di Versace sono state dei veri e propri spettacoli, come sempre sono le sfilate, per quanto mini, perché durano meno di un quarto d'ora, sfilate evento che solo i big possono permettersi. Dalla prima pagina di Finanza e Mercati un aggiornamento sulla quella che possiamo chiamare la battaglia per RCS, il gruppo RCS di cui fa parte il Corriere della Sera. Sapete che ci sono due grandi offerte sul tavolo: una è quella di Cairo Communication, l'editore che tra le altre cose possiede la 7, e l'altra è quella di una cordata guidata dall'imprenditore Andrea Bonomi. Ora c'è un gioco di rilanci, potremmo dire così, e Laura Gavagni ci racconta: Cairo apre all'ingresso di un partner, nell'aumento di capitale da 70 milioni spunta il progetto per coinvolgere un nuovo socio. E poi vi dicevo, a pagina 21 trovate i due ricordi di Vittorio Merloni, il pioniere della Confindustria moderna di Luigi Abete e l'ottimismo contagioso del vero innovatore di Romano Prodi. Vi dicevo dal Corriere della Sera l'intervista di Alan Friedman a Donald Trump, che a questo punto è il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali che decideranno in novembre chi sarà il successore di Obama. Il suo rivale sarà, come sappiamo, Hillary Clinton per i democratici. Alan Friedman ha intervistato Donald Trump sul suo Boeing privato all'aeroporto di Houston in Texas e gli ha chiesto moltissime cose, soprattutto di politica estera, perché la politica estera viene considerata uno dei punti più deboli di Trump, e come abbiamo visto anche sulla copertina, il titolo scelto dal Corriere, Trump si dichiara disponibile a invitare Putin in America e persino a trattare con Kim Jong-il, il dittatore della Corea del Nord. A proposito di elezioni, oltre al 23 giugno, che è la data del referendum sulla possibile Brexit nel Regno Unito, invece il 26, domenica 26 giugno, domenica prossima, si vota invece in Spagna, elezioni politiche anticipate, perché dopo le ultime elezioni politiche, anche per via della crescita dei due movimenti che sono molti accostano ai 5 Stelle, da una parte Podemos e dall'altra Ciudadanos, Podemos più di centrosinistra, anche se sono categorie molto difficili da applicare a questi movimenti, l'altro più di centrodestra, Aldo Cazzullo è andato in Spagna a raccogliere un po' gli umori. Sapete che Aldo Cazzullo, insomma, si improvvisa un po' sempre, cioè diventa è un po' un tuttologo, perché scrive di qualsiasi cosa, in questo caso appunto si improvvisa politologo spagnolo, è andato, ha raccolto le sue impressioni e ce le racconta a pagina 15 del Corriere della Sera. Quattro leader per una Spagna verso un sorpasso storico a sinistra. Perché quattro leader? Perché c'è Mariano Rajoy, il candidato del Partito Popolare, che però ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento. Poi c'è Pedro Sánchez, il giovane leader del PSOE, il Partito Socialista, e poi c'è Pablo Iglesias, appunto il leader del movimento Podemos, e Albert Rivera, il leader del partito, un altro movimento, partito anticasta, che, come vi dicevo, si chiama Ciudadanos. Una notizia naturalmente citando Alessandro Milan è da Mani sul Volante, la trovate a pagina 23. A Roma la gestione dei parcometri dell'azienda è stata affidata a un'azienda di un ex scassinatore, e questo fa parte del disastro dell'ATAC, l'azienda che a Roma gestisce il trasporto pubblico. Sono sparite 1200 SIM per controllare gli incassi delle macchinette. A proposito di treni, abbiamo parlato di questa nuova possibile collegamento ferroviario tra Svizzera e Italia. A pagina 15 invece della Repubblica c'è un'intervista di Fabio Bogo a Renato Mazzoncini, numero uno di Trenitalia, l'amministratore delegato delle ferrovie, che spiega un po' le sue strategie di medio-lungo termine. Nuovi treni, strade e stazioni smart, così cambierà la mobilità in Italia. Dal Messaggero un aggiornamento sul concorsone della scuola, concorsone e maturità, rischio caos per i commissari, perché ci sarebbe questa specie di ingorgo su queste due questioni importantissime che riguardano la scuola. Altra notizia che potremmo dire di mala sanità in un certo senso, la trovate sul Messaggero e anche su altri giornali, viene dalla Sicilia: via il medico non obiettore, non sarà più possibile abortire a Trapani. Ricordiamo che per quanto sia prevista dalla legge appunto l'obiezione di coscienza per i medici che non, per i ginecologi che non vogliono praticare l'aborto, in realtà l'aborto è legale in Italia, quindi dovrebbe anche essere possibile. possibile per chi fa questa dolorosa scelta poterlo fare. Non sarà più così a Trapani. Il primario di ginecologia va in pensione e i 6 colleghi rimasti sono tutti contrari. Nell'unico ospedale pubblico della città l'interruzione di gravidanza diventa impossibile. Una bella storia dalla stampa, di quelle storie che la stampa racconta a proposito di artigiani, di mestieri che vanno perduti o che magari qualcuno cerca di salvare, e questa volta la storia è quella di Mauro Savin, 52 anni, il fabbro fisarmonicista che dà un suono ai campanacci. Lavora ad Aosta, vicino ad Aosta, è un artigiano che appunto fa sì che i campanacci siano intonati. Vi dicevo, la giornata del rifugiato, sull'Avvenire un approfondimento, oltre l'emergenza degli sbarchi, guardare al futuro dei migranti. Caritas Italiana e Commissariato per i Rifugiati puntano il dito contro il sistema, che è un sistema che spinge all'emarginazione sociale, alla microcriminalità. Di questo si continua per fortuna a discutere, cioè della necessità di accogliere i migranti per qualsiasi ragione scappino dai loro paesi, cioè o per fame o per guerre o per motivi appunto economici, perché se fallisce questa prima fase di accoglienza poi è facile che vengano così quasi naturalmente accompagnati verso l'illegalità. Alcuni numeri: 22.335 le domande di asilo ricevute in Italia nel primo trimestre 2016, meno 10% la percentuale di richieste rispetto all'ultimo trimestre 2015. 1 milione le domande di asilo pendenti in Europa, sono 60.000 in Italia. Una notizia sempre dall'Avvenire su una legge sull'eutanasia, tema molto controverso. In Italia, per esempio, sapete, è illegale. Molti italiani che decidono di ricorrere all'eutanasia vanno nella vicina Svizzera, e l'Avvenire ci racconta: il Canada accelera, l'eutanasia è legge. Ultimo via libera del Senato al testo, minori esclusi, ma la misura è ancora molto vaga. E poi subito sotto, perché questa notizia è nella pagina 21 dell'Avvenire dedicata alle notizie che vengono dal mondo, la notizia che viene dal Brasile: Rio in bancarotta prima dei giochi, l'amministrazione statale è in rosso per 5,5 miliardi di euro, a rischio i servizi di trasporto, sicurezza e sanità. Notizia che viene ripresa anche dal Fatto Quotidiano, da Libero, scusatemi, a pagina 10: a 50 giorni dalle Olimpiadi, lo stato di Rio finisce i soldi. Una notizia, io sono un po' così sensibile a tutte queste notizie che riguardano gli animali, specie gli animali da compagnia. A pagina 6 del giornale trovate questa notizia di cronaca: il tuffo nel lago Confido per un bagno a 6 zampe, cioè noi quadrupedi e i nostri amici quadrupedi e noi bipedi. Per un bagno a 6 zampe non serve più viaggiare. A Zibido San Giacomo, uno specchio d'acqua dove cane e padrone ora nuotano insieme. Sapete che sono ancora molto poche le spiagge in Italia dove si possono portare i cani, o dove comunque ci sono delle regole per portare i cani. Nessuno dice che dovrebbero sempre tutti scorazzare in libertà. Un'altra brutta notizia, non dalla Sicilia ma dalla Calabria, dal Fatto Quotidiano: l'allarme viene dal procuratore di Reggio Calabria Cafiero De Rao, nessun PM vuole lavorare a Reggio. Ci fermiamo un attimo per il traffico, ci ritroviamo con i supplementi culturali della domenica. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica. Un'ultima segnalazione dai giornali prima di passare ai supplementi culturali: una specie di retroscena, un rumor, chiamiamolo così, un rumor finanziario economico dal Fatto Quotidiano. Stefano Feltri racconta: Unicredit ora serve una D per Brexit, Passera è pronto. Sapete che Unicredit in questo momento è senza amministratore delegato, perché Ghizzoni è stato in un certo senso dimissionato, e la seconda banca più grande d'Italia è appunto senza amministratore delegato. La curiosità è che, secondo Stefano Feltri, Passera è pronto. Corrado Passera, che ha 62 anni e sapete che è stato in passato l'amministratore delegato della prima banca italiana, che è Intesa San Paolo, quindi sarebbe così una sorta di destini incrociati. E quello di, tra l'altro, Passera era stato poi, si era dato, era stato, è stato anche ministro dell'economia nel governo Monti, e poi sapete, per un piccolo periodo si era anche candidato a sindaco di Milano, poi ritirandosi quando è diventata ufficiale la candidatura per il centrodestra di Stefano Parisi. Ma veniamo appunto ai supplementi della domenica, e cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi sulla Domenica del Sole 24 Ore, che questa settimana si intitola Le spighe e prende spunto da una citazione, da una raccolta, una delle raccolte di pensieri di Michel de Montaigne. E il pensiero è questo: le spighe si elevano con la testa dritta e fiera finché sono vuote. Quando nella loro maturità sono colme e piene di grano, si fanno umili e abbassano il capo. Hanno rinunciato alla loro presunzione, hanno riconosciuto la loro condizione naturale. Scrive Gianfranco Ravasi. Quando scriveva queste righe, Montaigne forse guardava da una bifora del suo studiolo la campagna bordolese che circondava il castello paterno. Che sapete che Michel de Montaigne, a un certo punto della sua vita, appunto, si chiuse in questa torre che faceva parte della proprietà paterna, e sostanzialmente passò la maggior parte della sua vita a leggere, studiare e poi scrivere i suoi pensieri. E quindi ci dice Gianfranco Ravasi: è un semplice fenomeno naturale, si trasforma in una metafora morale. Un po' tutti, quando siamo ancora giovani e maturi, siamo pronti a essere giudici sferzanti, a impancarci nell'assegnare soluzioni sbrigative a tutti i problemi. Avanzando negli anni, sotto la frusta dell'esperienza o curvando il capo nello studio, diventiamo anche noi come le spighe colme di chicchi, più umili, più consapevoli dei limiti, più saggi nel giudicare, perdendo quella presunzione che ci faceva levare il capo in un altezzoso giro d'orizzonte. Purtroppo, però, non tutte le spighe si riempiono di grano, non poche rimangono anche quando sono secche, cioè vecchie, con la loro fluttuante vuotezza e vacuità. Ma poi vi segnalo il memorandum del nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Questa settimana è dedicato a un ricordo di Marco Biagi, il jus lavorista ucciso dalle Nuove Brigate Rosse. Roberto Napoletano ha organizzato una tavola rotonda, ha partecipato a una tavola rotonda organizzata dalla moglie e dalla vedova di Marco Biagi, Marina Biagi, e racconta un po', coglie lo spunto per giustamente tenere alto il ricordo di questo jus lavorista. E poi però c'è anche lo spazio per ricordare Vittorio Merloni, che viene definito un innovatore dentro e fuori la fabbrica. Scrive Roberto Napoletano: mi è venuto in mente un incontro a Fabriano di molto tempo fa e una sua frase che riecheggia questo memorandum: bisogna investire in Irpinia, lo devono fare le aziende migliori del nord. Si riferiva alla ricostruzione industriale, ma pensava fin da allora alla cucitura del paese e, come spesso gli capitava, aveva visto giusto. Il titolo di copertina vero e proprio però prende spunto da un libro appena uscito in Inghilterra, che è dedicato a Margaret Cavendish, che fu la prima donna alla Royal Society. Varcò il Tempio Inglese della Scienza, pensate, nel 1667. Franco Giudice fa una recensione di questa bella biografia di questa pioniera del ruolo delle donne anche nella scienza, e appunto Margaret Cavendish. A proposito di eutanasia, abbiamo letto sull'Avvenire che il Canada ha fatto passare una legge che la potrebbe rendere legale. Cristina Battocletti ci fa una lunga recensione delle lettere di Umberto Saba, e il titolo è L'eutanasia è di moda, ma chi me la fa? Perché una delle cose, appunto, una delle frasi contenute in queste lettere, una delle riflessioni, partiva appunto dal tema dell'eutanasia. E poi vi segnalo, a proposito di donne scienziate, un premio che è stato assegnato questa settimana. È un premio a cui contribuisce una multinazionale che è L'Oréal, premia le giovani ricercatrici, le magnifiche 5 giovani della scienza. Direbbe Nabokov, scrive Camilla Tagliabue, hanno la precisione della poesia e l'ebbrezza delle scienze. Sono state selezionate tra 320 candidate e potranno continuare, grazie a questo sostegno di questo premio, di appunto organizzato, pensato dall'UNESCO e sostenuto da L'Oréal, potranno continuare a fare ricerca in Italia. In queste due pagine della domenicale trovate i profili di queste 5 giovani scienziate italiane. La lettura del Corriere della Sera affida la sua copertina, come sempre, a un artista. Questa settimana è l'artista israeliano Yona Friedman, ma vi segnalo dall'interno una recensione di Leonardo Caffo a un, al nuovo libro di Peter Singer, che è forse uno dei più importanti studiosi di bioetica al mondo, e soprattutto si è molto concentrato nella sua vita, è del 1946, sul rapporto tra gli esseri umani e gli animali. Il titolo scelto per questa intervista di Leonardo Caffo all'autore, quindi anche dove si parla dei contenuti del nuovo libro, che si intitola La cosa migliore che tu puoi fare è altruisti verso uomini e animali, la felicità secondo Peter Singer. Ma vi segnalo anche, perché i lettori del Sole 24 Ore della domenica lo conoscono molto bene, un bellissimo articolo di Carlo Baroni, sempre sulla lettura, un racconto di come lavora Franco Matticchio, che è appunto l'illustratore che sul Sole 24 Ore firma le sue matticchiate. Carlo Baroni ci racconta, partendo dall'ultimo libro di Franco Matticchio, che si intitola Jones e altri sogni. Jones è un gatto, il gatto che ascolta Bob Dylan, il micio Jones è un omaggio a lui, ma io amo il quartetto Cetra, questo dice Franco Matticchio. Carlo Baroni invece ci racconta come questo grandissimo illustratore italiano ha iniziato copiando i disegni di Topolino e ora invece è finito anche sul New Yorker, che è un po' quando insomma si dice un po' ho disegnato anche per il New Yorker, che sapete è una rivista culturale americana, una settimanale, che da sempre fa disegnare le sue copertine proprio a un illustratore in realtà di tutti i paesi, e quando appunto uno ha questo onore è un po' come una specie di Oscar, di Pulitzer, e a Franco Matticchio è capitato, anche ad altri illustratori italiani. La Domenica della Repubblica invece ha la copertina dedicata al cinema, perché in una mostra a Bologna si celebrano i primissimi passi di quella che viene definita la settima arte, cinema a casa Lumière, e trovate appunto tutti gli approfondimenti nelle prime pagine del supplemento della Repubblica. E poi questa storia bellissima, secondo me, prova d'orchestra siriana, il fagotto in Danimarca, una tromba in Libano, l'arpa in Germania. Dopo 5 anni di guerra sembrava impossibile riunire i musicisti dell'orchestra di Damasco, invece l'impresa è riuscita e sabato prossimo a Londra suoneranno insieme. Della serie Straparlando, le interviste di Antonio Gnoli della Domenica su 2 pagine illustrate da un altro grandissimo disegnatore italiano, che è Riccardo Mannelli. Questa settimana è Alberto Ongaro, che poi, a proposito di illustrazioni e fumetti, è scrittore e giornalista, è stato sceneggiatore di fumetti, forse il suo impegno maggiore è stato con Ugo Pratt, l'autore naturalmente di Corto Maltese. Ultimissima segnalazione da Alias, il supplemento culturale del Manifesto. Una lunga recensione, di quelle recensioni che chiamiamo un po' vecchio stile, Il Dio, Lavoro e lo Scrittore, è la recensione di un libro di Vitaliano Trevisan appena pubblicato da Einaudi, che si intitola Works. In questo libro lo scrittore anatomizza il nord-est industriale del paese senza alcuna retorica narrativa. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Roberta Frisani in regia, una buona domenica elettorale a tutti da Giulia Crivelli.